Ok, buonasera, benvenuti. Io sono molto felice di essere qui e di far parte di questa famiglia e vedere tutti, dai bambini piccoli ai ragazzi che mettono nelle loro mani l'anno scolastico, vedere Gianni e Letizia mettere nelle loro mani una gravidanza, ci fa apprezzare veramente quanto siamo famiglia e che valore abbiamo l'uno per l'altro. Teniamo questo in poca considerazione, non sono delle cose di poco valore, sono cose di grande valore, di grande stima, alle quali noi abbiamo il privilegio di partecipare. Bene, volevo condividere questa gioia con voi. Per quel che riguarda il messaggio, noi continueremo a parlare di quello che abbiamo visto l'altra volta, cioè delle parole di Gesù in Matteo 5,14. Io vorrei che le leggessimo assieme. È scritto: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La scorsa volta, quando abbiamo guardato a questi versi, abbiamo realizzato come questa è una promessa, una benedizione, un'aspettativa che Dio ha per la nostra vita, alla quale noi dobbiamo credere. Non abbiamo la possibilità di non credere, nonostante quelli che possono essere i nostri sentimenti, le circostanze, tutto quello che abbiamo vissuto, che tutto ci fa dire di noi stessi, fuorché che siamo luce. Noi abbiamo solo una possibilità di essere veri ed è quella di credere a quello che Dio dice, perché quello che Dio dice è la verità. Oggi faremo un altro passettino in avanti e inizieremo a chiederci che cosa significano queste parole per noi. Io ho sbagliato di grosso, mi sono fatto una domanda, ho detto: che cos'è la luce? E lì è iniziata una ricerca senza fine che mi ha fatto ingrippare il cervello. E non è una cosa semplice. Secondo me stanno ancora capendo che cos'è la luce. Credetemi. Però la definizione è questa. La luce è la radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda compresa tra circa 400 e 800 nanometri o nanometri. Perché questa è la radiazione percepibile dall'occhio umano, che trasforma queste sensazioni in qualcosa che vediamo. Al di sotto di quello ci sono gli infrarossi, al di sopra ci sono gli ultravioletti. Questo è giusto per farvi vedere che mi sono informato. La scuola inizia domani comunque, state tranquilli. Però già solo porsi la domanda: che cos'è la luce? Vi garantisco che non è una cosa semplice. E che cosa vuol dire Gesù quando afferma: voi siete la luce del mondo? E qui iniziano i problemi seri. Per risolvere la questione della luce, io ho pensato a come la definisco io la luce. Ci ho messo più di mezz'ora, non pensate che è stata una cosa semplice. Voi forse siete arrivati prima, ma io ho capito che la luce è quando si vede. Forse non è un'espressione corretta in italiano, però è una cosa che capiamo e credo che siamo d'accordo. D'accordo, la luce è quando si vede. Ma che cosa vuol dire Gesù con le parole rivolte a noi così importanti? Voi siete la luce del mondo. E di nuovo per me lì sono iniziate le difficoltà, perché ogni volta che pensavo a qualcosa e mi sforzavo di immaginare che cosa Gesù volesse dire, tutto quello che riuscivo a mettere insieme erano delle azioni che io potevo fare per realizzare in qualche modo le parole che Gesù mi rivolgeva e diceva a me: tu sei la luce. Quindi io ho pensato a leggere la Bibbia, poi ho pensato a pregare, ho pensato a venire in chiesa, ho pensato a parlare dell'Evangelo, ho pensato a essere impegnati nel servizio, ho pensato a fare il C1, il C2, ho pensato a tutte queste cose. Ma queste sono tutte cose che noi facciamo. Ma Gesù non ha detto fate la luce, ha detto voi siete la luce. E io ho dovuto ammettere a me stesso che tutto quello che avevo pensato fino a quel momento aveva a che vedere con il fare, ma non con l'essere. E credetemi, non è stato un bel momento per me. Perché se uno ti dice tu sei la luce, tu non sai che cosa significa, è come se non ti ha detto niente. E siccome avevo predicato la volta scorsa che era troppo importante credere e mettere fede in questo, mi sono trovato in difficoltà. Ho detto io sto credendo e sto mettendo fede in qualcosa che non ho neanche capito. E mi sono pentito del fatto di aver iniziato tutto questo ragionamento nella mia testa, perché veramente non ne venivo a capo. E poi pregando, parlando con mia moglie, anche se lei non se ne è accorta, però lei mi ha dato molti suggerimenti riguardo a questo. Piano piano, io credo che lo Spirito Santo abbia portato alla luce quello che significa essere luce. Allora, riguardo alla differenza tra il fare e l'essere, perché questa è una questione importante da capire. Essere è diverso dal fare. Se noi diciamo che siamo luce, non è la stessa cosa che dire noi facciamo luce. Esempio, se io dico a chiunque di voi, fai il cane, allora lui si mette giù a quattoni, inizia ad abbaiare, fa il verso del cane, magari mi morde per convincermi, ma sta facendo il cane, non è un cane. Capite la differenza tra il fare e l'essere? È qualcosa di molto, molto profondo. E Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo. E poi, piano piano, il Signore ha detto, vabbè, ma perché non leggi tutto il versetto? Cioè, fai uno sforzo in più, leggi tutto quel che sta scritto. E in effetti Gesù spiega proprio quello che intende dire facendo due esempi che sembra che non c'entrano niente. Dice, una città posta sopra il monte si vede, così come una lampada tu non la metti sotto un secchio, ma la metti sul candeliere affinché illumina la casa. Allora ho iniziato a pensare, a riflettere, ho detto, ma che sforzo deve fare la città per essere vista? O che sforzo deve fare la luce per illuminare la casa? Niente, cioè non deve fare niente. Allora mi è venuta proprio una piccola idea del fatto che forse noi non è che ci dobbiamo sforzare di fare qualcosa per essere luce. Ha più a che fare con l'identità che con l'interpretazione. E allora lì, piano piano, pregando e riflettendo e chiedendo e andando a leggere, è venuta un po' di luce in tutto questo buio. E ho apprezzato tantissimo, fatemelo dire, quello che è scritto all'inizio della Genesi. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. È qualcosa di glorioso, è qualcosa di glorioso. Sapete perché? Perché la luce è qualcosa. Dice, che cos'è la luce? Non lo so, però in funzione di quello che attraversa cambia velocità. La luce ha una velocità di 300.000 km al secondo nel vuoto. Se attraversa l'acqua si dimezza quella velocità. Quindi la luce è qualcosa. Forse noi non lo afferriamo, non lo capiamo, almeno io. Ma Dio ha detto sia la luce, e la luce è stata. Quindi gloria a Dio veramente. Basterebbe solo questo per sentirsi sollevati. Noi non dobbiamo capire tutto, dobbiamo però vivere ogni cosa. Tornando a noi, molto molto facilmente troppo facilmente, io oserei dire quasi automaticamente, e questo dipende anche molto dal carattere di ognuno, dal tipo di educazione, dal modo con cui si approccia alle cose, noi associamo, noi colleghiamo quello che Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo, con qualcosa che noi dobbiamo fare. Noi colleghiamo, voi siete la luce del mondo, con qualcosa che dobbiamo fare, quasi automaticamente. E sono quelle cose belle e buone e giuste che abbiamo detto prima, leggere la Bibbia, pregare, avere una vita degna, che dà gloria a Dio. Sono tutte cose buone, utili e che dobbiamo fare, che però ci fanno fare luce, ma non ci fanno essere luce. E ho capito che il nostro essere luce è legato a una posizione, alla nostra posizione. Così come l'essere luce per la città è legato al fatto di stare sopra il monte, e l'essere luce per la lampada è legato al fatto di essere sul candeliere, così il nostro essere luce è legato non a quello che facciamo, ma a quello che siamo, e quello che siamo è legato alla nostra posizione. Perché, ascoltatemi bene, se fosse legato a quello che facciamo, saremmo noi protagonisti di quella luce, ma se è legato a quello che siamo, è Gesù il protagonista di quella luce. Infatti, Gesù ha detto: io sono la vite, in Giovanni 15, al versetto 5, io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. È una questione di posizione, non è una questione di fare le cose. Gesù ha detto: io sono la vite e voi siete i tralci. Se voi siete posizionati in me, voi porterete frutto. In altre parole, voi farete luce, perché senza di me non potete far nulla. L'apostolo Paolo ha espresso lo stesso concetto in altre parole. In Galati 2:20 lui ha detto: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui dobbiamo aprire una parentesi che riguarda la salvezza. Gesù è andato sulla croce, e Gesù è andato sulla croce per salvarci dai nostri peccati. Noi non abbiamo ragione di avere nessuna speranza al di fuori del sacrificio di Gesù. Se tu sei qui questa sera e non hai mai considerato il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce per il perdono dei peccati come un sacrificio per il perdono dei tuoi peccati, allora questa è la cosa prioritaria. Tu hai bisogno di andare da Gesù e di riconoscerlo come Signore e di confessare a Lui i tuoi peccati per ricevere il perdono, affinché Lui possa venire a vivere dentro di te. Questo è il fondamento. Su di questo possiamo ragionare finché vogliamo, ma sul fatto che la tua vita appartenga a Gesù, no. E allo stesso modo, se ti sei distratto dall'essere parte del corpo di Cristo, non rimanere lontano, torna a casa, perché in Lui, in Gesù, c'è la vita, in Gesù c'è la speranza. Gesù è stato crocifisso, e quando noi diamo la nostra vita a Lui, succede questo miracolo, che abbiamo la possibilità di non avere più noi la responsabilità di scegliere, di decidere, di fare, ma di poter dipendere dalle scelte e dalle decisioni che Gesù ci guiderà a fare, perché Lui è disposto a vivere dentro di noi. E sapete, proprio questo fa in modo che noi diventiamo una sorgente di luce. Il fatto che Gesù venga a vivere dentro di te, il fatto che lo Spirito Santo possa guidare la tua vita e guidarti nella verità, ti dà, ti mette nella posizione di diventare una sorgente di luce. Quando Gesù ha detto voi siete la luce del mondo, stava pensando al suo sacrificio, non ai miei o ai tuoi sacrifici di qualsiasi tipo che possiamo spendere per piacere a lui. Stava pensando al suo sacrificio. E questo è qualcosa che noi dobbiamo afferrare e dobbiamo prendere a piene mani, perché quando sentiamo un appello, una chiamata, un invito a entrare in nuovi territori, a vivere una nuova stagione, a partecipare a qualsiasi tipo di attività, noi pensiamo che stiamo facendo uno sforzo per piacere a Gesù. Se lo pensiamo così, siamo completamente fuori strada, e poi ve lo dimostro. Ma se cogliamo quella che è la volontà di Dio per noi, attraverso il fatto che Gesù vive dentro di noi e che lo Spirito Santo ci guida, allora quello non sarà un sacrificio, sarà un essere luce. Capite qual è la differenza? Lo stesso leggeremo, pregheremo, verremo in chiesa, ma sarà completamente diverso. Avrà un valore completamente diverso. Qui ci possono essere persone che sono venute in chiesa e che facevano meglio a stare a casa loro, sarebbe stata la stessa cosa, perché hanno pensato di venire in chiesa per fare un favore a Dio, per guadagnare dei punti. Se io sono qui a predicare perché penso che Dio ha bisogno di me, io faccio bene a starmene a casa. Ma se io penso che sono qui e quello che io faccio è mettermi a sua disposizione affinché lui abbia la gloria, allora questo è il mio posto giusto. C'è una storia, che è la storia di Abramo, che in qualche modo ci dimostra la verità di quello che sto dicendo. Abramo aveva ricevuto una promessa in Genesi 14 al versetto 4. Dio gli aveva detto: tu diventerai padre, anzi di più, diventerai padre di una moltitudine, di più, diventerai padre di tanti figli quanto sono le stelle del cielo. E invece la moglie era sterile, non avevano figli, non venivano figli. E allora hanno pensato bene, dice: mo gli diamo una mano a Dio a fare in modo che realizza quello che lui ha detto. E si sono messi d'accordo con la serva, con una serva, e hanno fatto, sapete quello che noi oggi chiamiamo la gravidanza surrogata? È già una cosa vecchia, è una cosa vecchia, sta già nella parola di Dio. Insomma, ha portato Abramo ad avere un figlio con la sua serva, ed è nato un figlio, effettivamente, Ismaele, in Genesi, al capitolo 16, al versetto 4, e quella scelta ha delle conseguenze ancora oggi. Poi, in un secondo momento, dopo 14 anni circa, si è realizzata la promessa di Dio, e cioè che Sara con Abramo hanno avuto un figlio, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, nonostante fosse sterile, e quello era il figlio della promessa, ed era il figlio della fede, era il figlio non del darsi da fare, di trovare una soluzione, ma era il figlio di credere in quello che Dio diceva. Naturalmente parlando, tecnicamente parlando, quello che Abramo ha fatto con Sara, ha fatto con Agar, uguale. Figlio è venuto da una parte, figlio è venuto dall'altra. Ma uno era un figlio di opere, uno era un figlio di volersi dar da fare, di voler aiutare Dio a mantenere le sue promesse. È come se noi dicessimo: Dio, tu hai detto che noi siamo la luce, e mo ti faccio vedere io come si fa. E l'altro era il figlio della promessa, il figlio che dipendeva dall'opera di Dio in Abramo e Sara, mentre Ismaele era il figlio che dipendeva dall'opera di Sara e di Abramo con Agar. Come ha visto Dio tutto questo fatto? È sorprendente, è qualcosa di incredibile. Questo vorrei che lo leggessimo in Genesi 22 al versetto 2. Qui siamo nella storia quando Dio chiama Abramo a sacrificare Isacco. Ed è scritto al versetto 2: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Ora, o è un errore o c'è qualcosa che non va, perché Abramo aveva due figli, Isacco e Ismaele, e qua Dio dice: prendi Isacco, il tuo unico. Perché Dio dice così? Perché Dio non prenderà nemmeno in considerazione quello che facciamo per Lui al di fuori della sua volontà. Non lo prende neanche in considerazione, cioè non se ne accorge neanche. Quindi essere luce con i nostri sforzi, con il nostro darci da fare, per dare una mano a Dio a realizzare le sue promesse, rischia di metterci in una condizione ma davvero brutta. È scritto in Matteo, al versetto 7:22, qualcosa di drammatico, credetemi, è qualcosa di drammatico, è veramente qualcosa di grave. Lì ci sono, Gesù descrive come andranno le cose e dice: ci saranno delle persone che verranno da me, si presenteranno a me e diranno: Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? È fatto in nome tuo molte opere potenti. Capite che noi ci possiamo desiderare di riconoscerci in questo, di vedere le opere potenti di Dio, di vedere i demoni cacciati, di vedere tutte queste cose. Sono delle cose alle quali noi aspiriamo, noi vogliamo che si realizzano, perché queste danno gloria a Dio. E queste persone stanno dicendo: noi abbiamo fatto tutte queste cose. E tu pensi che sorte di luce che è questa? E invece che dice? Che qual è la risposta? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. E uno ci rimane male, cioè ci rimane proprio male. Capite l'importanza di capire la differenza tra essere luce e fare luce? Io ringrazio il Signore che abbia portato alla luce questo, perché questo ci permette di rivedere correttamente quello che stiamo facendo e quello che stiamo vivendo, perché noi corriamo il rischio di incorrere in questa circostanza dove Dio ci dice: io non ti ho mai conosciuto, presentati. Ma io sono Stefano, ti ricordi il 10 settembre del 2017, ho predicato, e io rischio che mi dica il Signore a me: io non ti conosco. Perché? Perché io sto facendo la luce, ma non sono luce. La domanda sorge spontanea: allora che cos'è veramente importante? Che cosa è veramente importante nelle parole che Dio ha detto: voi siete la luce del mondo? Ed è importante veramente, non so se ve ne siete resi conto, è importante originale, non stiamo qua a dire qualcosa di poco conto. E ho dovuto pensare, se Gesù ha detto che è importante che noi dimoriamo in Lui e che siamo i tralci della vite, quindi che siamo attaccati a Lui, in qualche modo ci deve essere un collegamento in questo. Perché ha detto: voi senza di me non potete far nulla. Significa che se stiamo con Lui possiamo fare qualche cosa. Allora, mi sono iniziato a fare delle domande e mi sono chiesto: ma che cos'è veramente importante in una relazione? Nella relazione fra me e Dio, che cosa è veramente importante? È importante fare la luce o è importante essere luce? E ho pensato a me e a mia moglie. Quella è la relazione più importante per me. E da lì io mi regolo e ricevo molti spunti. Allora è importante che noi ci rispettiamo, è importante che noi ci serviamo l'un l'altro, è poi importante che siamo complici, è importante che soddisfiamo i desideri e i bisogni l'uno dell'altro. Sono tutte cose importanti, ma la cosa più importante è l'amore. È l'amore. Perché noi ci possiamo rispettare senza volerci bene? Noi possiamo fare un sacco di cose, possiamo fare tutto senza volerci bene. E sapete che noi possiamo fare tutto senza veramente amare il Signore? Quando la tradizione, quando l'abitudine, prendono il sopravvento. Tu puoi fare tutto, anche le opere potenti. Perché capite bene che se io prego per qualcuno e qualcuno guarisce, Dio non l'ha fatto per me, l'ha fatto per quella persona e per la sua gloria. Quindi a me, cioè a Dio di me, non è che gli interessa proprio assai, gli interessa del frutto che ha la preghiera e che ha la gloria del suo nome. Noi possiamo fare, ecco perché è possibile veramente che Dio dica: io non vi conosco, io non ti conosco. E allora la domanda che io mi sono fatto: quanto sono innamorato di Gesù? E la domanda che tutti devi fare è: quanto sei innamorato di Gesù? Perché non basta dimorare, non basta essere sposati, non basta vivere sotto la stessa casa. Una relazione è tale perché c'è un legame, è l'unico legame vero e di valore, è l'amore. Allora io credo che sia importante, alla luce di quelle parole che Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. E l'altra volta abbiamo visto quanto Gesù ci crede al fatto che noi siamo la luce del mondo e che prezzo ha pagato per poter dire: voi siete la luce del mondo. Allora dobbiamo iniziare a chiederci: la mia posizione, non quello che faccio, quello che gli altri pensano di me, ma la mia posizione qual è? È quella di una città sopra un monte, di una lampada su un candeliere, di un tralcio unito alla vite, o è diversa? È qualcosa di diverso. E io credo che dobbiamo sforzarci molto di più a impegnarci a innamorarci di Lui piuttosto che impegnarci a fare delle opere per Lui. Perché se noi facciamo delle opere per Lui, stiamo facendo la luce. Se noi ci impegniamo a far crescere quell'amore nei confronti suoi e del suo regno e dei suoi interessi, allora è Cristo che vive in noi e noi diventiamo una sorgente di luce. Io mi sono permesso di rielaborare le parole di Gesù in questo modo. Non le troverete scritte sulla Bibbia, però credo che ci possono aiutare. Gesù ha detto: io sono la vite, voi, luce del mondo, siete i tralci. Chi dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Quando Gesù dice senza di me non potete far nulla, è qualcosa di più del fare, è qualcosa che ha a che vedere con l'essere. Io so che mia moglie mi appartiene, che io appartengo a lei. Non è scritto da nessuna parte, ma so che è così perché ci vogliamo bene. Sapete che io a volte non ho la stessa consapevolezza nei confronti del Signore? Lo dico a mia vergogna, ma a voi non posso dire le bugie. Io voglio dire tutto quello che sta nel cuore mio, e io delle volte mi sbatto la testa vicino al muro a dire: Signore, perché io riesco ad avere così quella certezza, quel ragionamento riguardo a questo e meno riguardo a quest'altro? E il Signore poi dice a me: dice, ma tu quanto stai a pensare ai fatti tuoi, quanto stai a pensare a me? Ma questa è un'altra predica, è un altro discorso. Questa sera afferriamo a due mani il desiderio che Dio ha per noi, quando ha espresso attraverso le parole di Gesù: voi siete la luce del mondo. E afferriamo tutta la ricchezza e tutta la grazia che c'è in queste parole, affinché possiamo veramente essere guidati dallo Spirito Santo nel capire e nell'intraprendere tutto quello che può andare a irrobustire il nostro essere, la nostra identità in Cristo. Vogliamo alzarci in piedi? Signore Gesù, io voglio ringraziarti per la tua parola. Ti voglio ringraziare perché è vero che mi mette tanto in difficoltà, ma è anche vero che è così piena di vita, è così piena di verità ed è anche così chiara, Signore. Perché tu, quando ci dici che cosa dobbiamo fare, ci dai anche le risorse per farlo. Signore, io ti prego per me, prima di tutti, e per ognuno di noi che è qui, affinché noi possiamo afferrare il tuo desiderio nel nostro cuore, nell'essere luce. Aiutaci, Signore Gesù, a innamorarci sempre di più di te e a rendere questo amore sempre più vero, più vivo e più profondo. Io ti voglio ringraziare, Signore, perché non dipende dalle nostre capacità, dai nostri sforzi, ma dipende dalla tua grazia e dalla nostra fede nell'afferrare quello che tu ci metti dinanzi. Ti voglio dare la lode e la gloria, Gesù, e ti prego che questa parola possa portare frutto nelle nostre vite per la gloria del tuo nome. Amen.